no, mi hai detto prima, 9.40, così è. Ma che microfono c'è per quello che ti dà, Daniel? Guarda, c'ho quello della CTE. Non lo so, io non per contraddire nessuno, però ti ripeto, sembra quando c'hai le batterie scariche, quando c'hai un'impedenza sbagliata del microfono. Adesso mi ho portato il dubbio, ho attaccato lì come 7000 per vedere se il problema è la radio mia, no, anche quello lì, quello è abbastanza largo come ricezione, l'HF magari è un po' più stretto, può darti dei problemi di male ricezione, però con lì come quello è largo, qui dobbiamo addurre. Non lo so, Robè, non lo saccio. Ma dove sei, a casa tua sei, Daniele? Io, a casa mia. Ma il segnale è fortissimo, cacchio, considerando che non sei vicinissimo, sta arrivando una bomba. E sono lì adesso, forse sto usando mezzo watt. Figurati, ma l'antenna è sempre la faceva prima o hai cambiato posizione? No, è tutta antenna diversa, posizione, il posto è sempre lo stesso, un paio di metri più in alto di prima. Daniel? Ehi, arrivi? Sei sicuro che ci hai fatto i tre chiusi? Sì, Massimilia. Tutti a zero? A zero, sono il terzo pomello grande, non scende più. E me l'avrai girato a destra o a sinistra? A sinistra. Pappa gappa. Guarda, così sto aumentando appena il watt. Guarda, ore 9 e così ore 10. Già aumenta. Non so, la radio cosa succede? Sono liscio, perché l'ho staccato. Ti ripeto, io ti ascolto bene. Io, poi gli altri non lo so. Cava. Vabbè ragazzi, dai che devo scappare, se no qua mi picchiamo. Ci sentiamo più tardi se coincido alle prossime. Ehi, ciao Daniele, dai, fatti sentire quando vuoi, già lo sai dove sono. Ok, vai muro su Claudio, a te tocca. Dai, si vede? Vabbè, forse si è spostato. Claudio, salvi da te, tutti fuggiti, dai. Riprenditela tu Claudio. Però mi ha detto mio cognato che c'è un'altra fonte di lì vicino. Ce ne sono altre due, mi ha detto, di lì a San Martino. Devi essere un attimo di bianco se c'è qualcuno che vuole entrare avanti. Nulla, io sono andato e la fonte risulta prima dello stabilimento, andando verso lo stabilimento a sinistra c'è una specie di pietra con un buco di lì la prima fonte, però quando io vedo l'acqua che scende troppo lenta non mi bialzi, deve esserci pulizia, sennò era un po' stantia mi è sembrata. E l'ho andata col dito per vedere che c'era la salata ed era come la San Martino. Poi io sono andato dove c'è l'ipovia di lì, ho fatto un po' di strada a piedi, ho parcheggiato la macchina e sono salito in una collinetta e c'erano anche dei cani, infatti per animare in mani mi sono preso una bella pietra, ho detto cioè che i muzzicano, si sono avvicinati, però poi abbaiavano e se ne sono andati, ero con mia figlia, infatti ho detto stai attenta, tu mettiti dietro di me e non fuggire, perché se ti prendono alle spalle è pericoloso. Ehi, aspetta se c'è ancora Claudio, ci sei Claudio? C'ho gente, riprendete voi, ci sentiamo dopo, dai. Ehi, Massimiliano ancora c'è? Boh, Massimiliano forse si è allontanato. No, Claudio, io sono andato di lì, c'erano tutte le piante, le asparagine, tutto vuoto. L'ho trovato in un angolino forse perché non ci sono arrivati, ma pochi. Io dove li andavo a prendere sempre era la strada di Molaffa, andando dopo il passaggio a livello, andando dopo Usini, ci sono delle campagne di lì e ne trovavo un pochettino, anche se erano ben frequentate. E poi dove hai detto tu, sotto Codrongiano, di lì, c'era un amico mio che bigliava a quintali, però detto, deve andare durante la settimana presto in zone dove non sono passati, se no non trovi più niente. E infatti che succede così, ci sono i furbacchioni come quelli che vanno a prendere i polpi in mare, pigliano quelli piccolini, i moscardini, e non danno il tempo di riprodursi e ne raschiano tutto. Così succede nelle piante, ne sradicano tutto per fare gli ingordi. Ehi, aspetta, lasciamo un attimo di bianco se c'è qualcuno che vuole entrare. Ma qui ci sono quelli di Rotteri che stanno parlando. No, perché poco fa sentivo nel sottofondo Santiago 6-7 erano, però c'ho il QRM altissimo, io li sentivo, però non capivo quello che diceva. Sì, quella zona si è sicuramente aperto molto molto meglio di noi, di quelli di Sassari, perché non c'è niente, tu dovresti sparare anche oltre, diciamo, zone Orizzano, tutte quelle zone lì. Vabbè, forse c'è una collina che un po' ti chiude, se quella di Chereremule ti dà fastidio. No, Monte d'Oro è molto aperto, diciamo, copre tutto bene la zona di Sassari, magari non credo che arrivi più forte di quanto arriva adesso, perché lui di lì in alto non ha ostacoli. Monte d'Oro deve fare più strada, qualche chilometro in più, dovrà fare almeno 4-5 km in più per arrivare a te, per cui il segnale un po' si attenua. E vabbè, anche se non ti arriva a 9.40, ti arriva a 9.10, già va bene lo stesso. L'importante è che la radio sia chiara, anche se 8 o 9 va bene lo stesso. L'importante è sentirlo, poi se arriva più forte non ne sono convinto, perché è dove arriva lui, da quella zona lì, è molto più vicino, e poi secondo me, non so se sia più in alto di Monte d'Oro, ma penso di sì. E Antonello Barracuda non l'ho più sentito, era un periodo che ci faceva ascoltare spesso, ma tanti, anche Franco Binario, cioè tutte quelle persone in gamba che ascoltavamo, non le ho più sentite. E anche io l'avevo sentito, mi sembra, quest'estate, subito dopo il Covid, verso maggio-giugno, quel periodo lì in macchina sta facendo delle prove, si metteva in alto su nella parte alta del paese, perché se no in macchina non riusciva a farsi sentire, e basta. Ok, io adesso però devo lasciarti, Claudio, che devo fare altre cose. Piacere sempre ascoltarti, saluta tutti in casa e avremo modo di sentirci. Dai, poi se capita ci organizziamo, andiamo a vedere questi posti che mi stai dicendo tu, Mari, e troviamo qualche possibilità di vedere, di mangiare qualche asparagio. Li ho mangiati, tu, erano eccezionali, eccellenti, sia in frittata che con riso. Ieri il riso è buonissimo. Niente da dire, zona buona, per cui la merce che mi ha dato era ottima. Ti rilascio il mic e vediamo un po', dai. Ciao, scusa che c'ho gente, ci sentiamo più tardi, ciao. Gappa. contattato anche quelle militari, tutto, non mi è rimasto più niente, a dire una radio, nulla. Il Galaxy è buco in questo momento, perché il 430 mi è rimasto l'alimentatore, il PS50 e il CP430, e l'MC60. Dovrebbe spedirmelo la prossima settimana, l'ho mandato a revisionare, però ho avuto problemi tecnico di salute, quindi l'avevo mollato. Ci siamo sentiti per telefono, adesso l'ha ripreso, lo sta finendo tutto qua. E Amuros, ma ha portato un cofano di radio, un cofano più sopra i sedili la prima volta, poi sono venuti loro e ne hanno portato via un altro po'. Non c'è rimasto più niente, fra intanto ce ne va, anche tutti i microfoni, quelli vintage, tutto. Sì, ma rimangono tuoi oppure sono proprio donati? No, donati. Cosa? Non vendo niente, io non vivo nel soldi delle radio, fra come fa qualcuno, a me non mi interessa, io grazie a Dio vivo con i soldi che mi sono lavorato per 40 anni, non mi interessa niente. Donate a questo nuovo museo carta, tutte, le radio molto belle, tutte funzionanti. No, non mi sono spiegato bene, io pensavo che rimanessero tue e erano solo lì in esposizione, capito? Solo per noi, perché le avete vendute. Ho capito che le hai donate, no? Era solo una precisazione. No, donate. Regalate. Sì, ho capito. Già va bene. E ma c'è in mezzo anche qui, come si chiama? Quei due, i Muros? Sì, sì, gestiscono loro. No, diciamo io il cognome non lo sapevo. Claudio è il padre, come si chiama? Claudio e Gianni, sì. Museo Carta. Ne avevano un sacco anche loro, no? Ne hanno, ma adesso con tutte quelle che gli ho dato io ne hanno ancora molte di più. Poi sono belle radio che loro non avevano, capito? Quindi gli ho dato una anche militare che è bellissima, tanto io non la uso, va a 24 volts, la gestiscono loro, sono contentissimo che la gestiscono loro, gente che merita, fra, gente che merita, come si è sempre comportata bene, mi ha sempre rispettato, siamo sempre rispettati, quindi va bene, capito? Aspetta che sta squillando il telefono. Sì, capo. Va benissimo, sta riuscendo veramente bene, guarda, come radio è buona. No, non è questa che sto usando, sono di fronte ma non è collegata. Perché come radio questa va bene. No, fare qui sto usando il Samurai, un vecchio Samurai anni 80, credo, 70-80. Adesso ma si difende bene. No, ho portato un po' a minimo di watt per dirottare l'Alfa Lima e basta, infatti non arriva neanche a 9, modulato forse un po' stare più su del 9, lo smitta, beh, invece prima andava verso il polo scala. Ma caspita, qua sta arrivando 9.15, quindi non è che... No, tu sei più forte di 9.15, prova. Vabbè, io sono un uomo grande adesso, Se sono piccolo arrivo più forte ancora. Sì, oltre il più del prima del 30, dai. Quindi cos'è? 9:20 abbondanti anche, credo. Già va bene, intanto. No, va bene, l'ho abbassato a porta, adesso sono con 4 watt, diciamo di portante, poi quando modulo un po' sale qualcosina in più. Bene. Però quando agganci almeno non vai in saturazione alla radio, non rovina la radio, anche se perdi un po', quando usi liscio, ma già va bene così. No, non penso troppo, è perfetta. No, quando aggancio dico, adesso sono liscio. Oh. È freddo adesso, aspetta, lo accendo un po'. Ma quello è valvolare? No, non è valvolare, è la transito, però un giorno lo faccio scaldare un pochino, dai. Ecco, io lo stesso ne ho uno collegato, ma lo accendo solo, diciamo, sabato o domenica, perché ci vuole un po' allinearsi un po', 5 valvole, quindi devo scaldare bene. Vedi un po' quanto sta rendendo? Sono questa transito, quindi è subito pronto. 9:25, buono. E anche qualche picco in più di positivo, vai, più di 25 arrivi. Qui mi segna i picchi a 250, ma non penso che siano reali. Già va bene. Hai lo smitter oltre più 30, non va? No, sì, il mio arriva anche oltre. Guarda questo segnale. Vabbè, anche io sono scelto. Vabbè, dentro il mala. Per cavolo, lei non c'è un pochino. Ti cambio radio però. Scappa. Vabbè, Anto. Ehi, ciao, buonasera a tutti, buonasera. Stavo ascoltando, come va? Tutto bene? Tutto bene. Tutto bene, ciao Antonio. Guarda così, questo è il piccolino però. Adesso sei proprio 30 attaccato. Questo è il piccolino. L'altro più grande deve scaldare, non vuole neanche riaccenderlo perché ci vuole già un quarto d'ora, 20 minuti a scaldare, poi devo utilizzare un po' metà potenza per stabilizzarsi. Vabbè, un po' così. Vediamo, vai Antonio. Raga, vai. Io ho appena finito di mettermi a posto la bicicletta. E finalmente dovrebbe andare bene, dai. E allora pedali. Quello che stavo, quando agganci ti stava un po' mangiando la radio, stava andando leggermente in saturazione. Come mangiando la radio? No. Va bene. Non me ce li intendi? No, non sto dicendo attento. Cappa. Sembrava strano. Emi! Va! Ho appena finito adesso che mi ha scoppiata la ruota in un fosso. A me, fra, stava mangiando la radio? Sì, te la sta già mangiando, si sente un po' che sta un po' strappando. No, forse ho toccato la guarda di entrata, guarda così. No, ancora. Aspetta, freddo. Guarda, 1, 2, 3, prova. Si sente ancora. Adesso no, guarda un po', 1, 2, 3, prova, anzi vuoi aumentare appena anche di entrata, guarda. Oh, va bene, è comprensibilissimo, però si sente che c'è qualcosa attaccata. Anche adesso? Leggermente, non è una pezzeria, prima si sentiva di più. Già, vabbè, forse mi avevo dimenticato per una cosa, ma così dovrebbe andare bene. Sì, no, adesso è comprensibilissimo, proprio molto meglio rispetto a prima, proprio si sentiva di più. Adesso sta rasentando la perfezione. Andare, mi assento 2 secondi, riprendo subito. Mato. Oia, dimmi. Non mi dica che ci sono fusi a Sassari, no? No, appena. No, non ho visto fusi, no. C'è anche un fosso. Neanche un fosso c'è, appena. Ne ho preso uno, ho la smart e mi sono passati sopra gli altri che quando io ero dentro il buco. Ma sei imbarrato? No, sto scherzando, comunque sicuramente non fanno bene quei fossi alla macchina. non fanno bene, no, la mia bici elettrica l'ho sfasciato, capito? Ho capito, vediamo un po' se Claudio è entrato. Claudio? Non c'è Claudio. Stamattina giù Babidadu con l'ingegnere della LEM, proprio il proprietario, e gli ho detto cosa succede a Colleringo. Gli ho detto che si è staccato sotto, si è staccata, adesso che provvederanno subito a modificarle. Ma l'antenna tua? Quell'altra vecchia, cioè quell'altra che c'ho di scorta, io mi raggio a conta, E cosa ti succede? Il coso centrale si stacca dopo un po' di tempo, capito? E io ci ho messo un bullone in acciaio al centro, gli ho fatto il buco, gli ho fatto una bella modifica. Adesso pure lì è pronta, se succede qualcosa ce l'ho, capito? Non sono presente come è fatta la Ringo. Io ormai non conosco la Mantova 1, perché ne una tutta smontata che la sto sistemando. E quella senza radiali. Infatti ho parlato con l'ingegnere, ho parlato. Cioè che sarebbe il produttore. E provvedono subito a metterle a posto. Ci ha preso anche il numero di telefono, chissà, magari me ne regala una. Già modificata, già a posto di tutto. E speriamo, io la mia ancora non l'ho provata. Ho ricostruito i radiali, la bobina, tutto nuovo, chissà, però quando la piazzi se va bene, sarà un punto di domanda, vedremo. Quella che ho rimesso a posto io non va bene, va benissimo, perché ho bene stazionari e tutto, è a posto. Ma qua ho dovuto riparare tutto quanto, la bobina, adesso devo vedere la misura, perché non mi ricordo quant'era la misura esatta della Mantova, dovrò guardare su internet se trovo qualcosa, dai. E poi i radiali li ho tutti caricati a nuovo, ovviamente se vanno bene con quel tipo di rame, o se ci voleva quel rame, quello che non si chiama, non mi viene il nome adesso, lo ripeto, da provare, se no te l'ha potuto. Non sono retrorigine radiali, no? Ma ci sono tutti rotti, quindi adesso ho ricostruiti esternamente. Ho preso il filo di rame e gli ho fatto la carica fino alla fine, dai, 2,75 ogni radiale, mi sembra che ho fatto, 2,70, non me la metto. L'ho preso da internet. Allora, dovrebbe andare bene, dovrebbe andare. No, la mia è senza radiali, però... Cavolo, se la ripari ti dura una vita, cioè no, non ho problemi più. Questa sta durando, la di chi si fascia, la scendo e me la metto a posto pure questa. Non è neanche la mia, era di un'altra persona, soltanto è rimasta troppo tempo ferma e quindi si è tutta ossidata, tutta bloccata, no? E ci vuole un minimo di manutenzione, ogni paio d'anni bisogna smontarla, ingrassarla, mettere un po' di olio di vasellina, muovere un po' la bulloneria, cambiare quello che c'è da cambiare, se no alla fine ti abbandona, dai. Sì, se è piazza da ti dura pure 20 anni, in un'altra gabbiciuria e non ci sono problemi. Sì, sì, è che poi vai a smontarla e non riesci più a smontarla, capito? Dopo 20 anni è tutta ossidata, tutta bloccata. Invece ogni paio d'anni, 2-3 anni o 5 anni, la scendi, la ricontrolli, una passata di vulcanizzante nelle giunture, e dura di più sicuramente. Sicuramente sì. Cosa compare già qua? Mi compare giù antenne, è un viraggio di scorta. Sì, magari chi su mi chiama dice, guarda, gli ho portato, perché ha detto dopo 6 mesi, io gliel'ho messa così, dopo 6 mesi si è attaccato un pezzo, adesso l'ho riparata. Se mi chiama questo qua, mi dice vado da Fusaro e se la prenda perché abbiamo fatto un omaggio nuovo, eccetera, eccetera. E quando mi abbiglio? Tanto la sua vita. Probabile, in genere ti chiedono delle foto, però delle fotografie della parte che ha avuto il problema, dai. Così poi loro agiscono di conseguenza. Oh, niente di strano che te la dicono poi, io te lo auguro, dai. Non era un problema, mica io gliele fornisco le foto, amico, è successo. Non è un problema. Sì, io quando una volta compro una cosa che arriva difettosa, loro vogliono un video oppure una serie di fotografie con quel problema, no? Nello specifico, e poi loro ti mandano il pezzo nuovo, là, quello che non va bene. A volte ti chiedono anche il vecchio indietro, a volte no, dipende dalla ditta. Io ho detto, no, ma ho parlato proprio col proprietario, quindi non penso che, non è un macco, no, cioè la sua azienda deve avere il meglio, deve avere, e io ho detto che si sta cavalli, cioè magari me, cosa ne so, magari me ne manda una, me ne manda. Adesso magari mi chiama, sai, questi molte volte fanno anche gli omaggi. Sì, lo fanno. Vediamo un po', sei diventato Tino o Claudio? E avanti, care. Buonasera a tutti. Uè, ciao Daniel, buonasera. Buonasera, salutoni circolari. Cappa, sono in compagnia di Franco, no? Com'è il tuo? Sì, Franco, freccia rossa. Ma Daniele, sei 4x4? Cappa di Rosmetro. Vabbè, cosa state combinando di bello lì? Siamo fermi e niente. Abbiamo fatto un paio di corsi di protezione civile, a pregio brevetto, a livello nazionale e basta. È un casino anche per voi, per noi, no, perché anche io sono appassionato di fu di strada, però. Allora, io l'ho cambiato, ho preso un passo lungo, un Pajero passo lungo. Ma io l'ho venduto. E cosa c'hai adesso? Sono alla ricerca. Io ho preso il passo lungo, ma me ne sono già pentito, forse più, per lo spazio è 10-0, però il passo corto mi sembra più, come si dice? È più un grillo, Lo so, è più agile quando fai in determinate situazioni, già trovare un compromesso per le uscite, queste cose qua. Poi il passo lungo si è paralizzato e ti tocca dietro, secondo dove ti infili. L'altro giorno ho passato una buca lì vicino a Ugilo, pensavo di tocca, fatto scendere il mio amico che era con me in macchina. Invece non ha toccato né da davanti né dietro, né in ingresso né in uscita. Ma non sembra, cioè sembra bassa, però non è così bassa, dai. Si può mai con un kit di rialzo si potrebbe recuperare quei 5-6 centimetri. Sì, già li trovi. Trovi tutto, puoi fare il body alle sospensioni. Cos'è, il nuovo o il vecchio? No, è V80, quindi insomma, puoi solo sollevare molle e ammortizzatori e basta. Allora sì, solo con gli ammortizzatori e le molle puoi fare qualcosa. Mentre quello a traliccio con gli spessori e un po' gli ammortizzatori li recuperi qualcosina. No, ho preso il V80 perché mi piace quel modello lì, quello che avevo prima, quello bianco, no? Avanti, Anto. Cappa Daniel, sei 9.40 in oggi, ti sento una bomba. Cava, liscio come l'olio sopra, Anto, tutti i watt della radio, sto facendo con mezzo watt. Solleva un pochettino, perché sei un pochettino saturo, magari te lo fa anche perché stai facendo così poco. Ma io sono staccato, Anto, guarda, 1, 2, 3, 4, 5, sono sia no 2 watt, boh. Già va bene, già va benissimo, però c'ha una radio micidiale, cioè di portante sale di brutto, caspita, c'ha dei picchi positivi allucinati. Guarda adesso com'è invece, ora la cipolla, la mazza di Nivaria. Avanti da un poco senza drattarla questa radio. Si conferma. Perché qua ho fatto, diciamo, un soppalco, sono ricavato la mia stanza qua a casa, un soppalco. E non lo sto finendo, però non riesco a sistemarmi una scaletta. E antenna come sei, Daniele? Aspetta, qua stavo parlando, ti ho sentito, ho scoperto solamente antenna. Ho detto, antenna, cosa stai usando come antenna? Un Energy 5 ottavi. No, arrivi forte anche tu qua. Va. E sono liscio, liscio. La verità si ricca, non nascondo niente. Sì, dal più arrivi al 30 con i picchi positivi. Va. Che non è sistemata come dico io quell'antenna, capito? Antonio non si ricorda dove abito io, soltanto che in confronto all'avanzo fatturbo che avevo prima, adesso questo sarà un metro e mezzo, due più alto dal tetto. Ma per come dove sei tu, quella lì va bene. Sì, Antonio, perché se arriva l'antenna agile e leggera da manovrare, capito? Se vuoi a 5 ottavi lui che sono questi, ce cioè sono tante, di leggere ma maneggevoli, poi si passerà dalla Mantova e trovi quante ne vuoi. Capa, anche quelle stanno scomparendo, anche le Mantova stanno scomparendo, e chi ce l'ha si fa sbagliare. No, ma quella già va bene. La tua Ringo ancora ce l'hai, Daniele? A chi Antonio? La Ringo? Sì, ce l'hai ancora. Capo, è qua in garage, a riserva. Qua c'hanno un difetto, si stacca dal centrale, io l'ho riparata una. Lo so. Quella l'ho provata e funzionava molto bene lo stesso. Molto bene, niente da dire. Anche questa, guarda, ce l'ho già un paio d'anni forse. Questo forse è il secondo anno che ce l'ho, non lo ricordo. Non di più, con quei due anni. E funge, non mi posso lamentare. Già un po' di gente ce l'ha, già va bene, già. Ho voglia. Si conferma. Riprendi, sono sbaglio, Franco. Sì, capa, no, io sto andando con la canna da pesca, sempre, te lo penso già un paio d'anni, forse anche di più. No, già, state arrivando tutti bene, dai. Niente da dire, gava. Ma scommetti che io sono il più forte di tutti. Sì, vai come è, sai. Allora, l'altra giorno ti ho sentito, sono qua. Vabbè, Claudio arrivava più forte perché Claudio c'ha la testa, però sentivo anche a te. A me sei il vende. Sì, a te, ti sentivo l'altro giorno, Alghero. Non fortissimo, ma io ero in macchina, con la paramobile. Però ce l'ho troppo coperto io quel posto. Io qua lo stesso, vabbè, la mia non è sul tetto l'antenna, anche per quello. Però Alghero negativa, addirittura io anche porto Torres, perché ho il palato di fronte. No, io già arrivo. Sì, arrivo anch'io, però ma la pena, anche il sorso negativo. Guarda, non ho tanto problema in quella zona, volevo provare un tintino a vedere come arrivavo, perché molti arrivano, io non lo so. E lui? Sta arrivato, armato ci sei. Comunque era veloce questo signore, sciappiato, perché c'era Franco in macchina, ho visto la portante. Anche non lo so, qui in Kiwi. Ma qui arriva basso, molto basso, non lo so. C'è altra gente, l'altra voce arriva forte qua. Anche non lo so. Gare. Oioia. Dove vuoi andare che ci scemo? Lascia vedere qualcosa a capo, lo sto toccando. C'è la portante aperta. Un attimino. Così, lo fa. Cuccia. Ti bruci le corna a me. Quando ti arriva a te? Mi arriva 9:10, il solito segnale c'ha. Ma qua arriva Santiago 6. Vai, Marco di catena. Forse anche di meno, forse a 6:7 arriva con i picchi positivi, se no è anche più basso. solita storia. Aspetta, aspetta. Solita storia, da. Ciao Marco, lì. Come è acceso o chiuso? Ciao, io accendo la TV. A Consi senti. Però non va bene, bisogna scoprire chi è. È appena arrivato, poverino, dai. Ma è da giorni che sta rompendo le balle. L'ha fatto al 10, l'ha fatto al 30, capito? Si fa tutti i canali. Va bene, un saluto a tutti, non so chi c'è. Sono in passaggio. Ciao Franco, Bombo, ho sentito. Claudio mi pare di aver sentito. Chi altri c'era? Vabbè, un saluto a tutti, dai. Grazie, grazie. Daniele, ci sei? Sì, Bianco, un secondo, c'è una bassa. Uia. Quindi c'è da molto in giro questo ragazzo. Sì, sì, è vari giorni fra. L'altro chi era? Daniele, quello che ha salutato adesso che c'è la bassa. Un po' compresso, un po'. Non lo so, vabbè, niente di che. Ciao fra, ciao, non riprendo, sono di passaggio, ciao. Ciao a cui, alla prossima, stammi bene. Avanti, Anto. Marco, non hanno senza. Sì, non ha voglia di sentire pernacchio, vuol dire. Ma è un bisciavotti, ma dove vuole andare? Aspetta, continua. E ti arrangio io. Qualcuno in giro c'è, le zecchende? Siamo zecchende. Ma così non entra più me. E infatti, dovete agire nell'ombra, non dovete dire nulla. Se glielo suggerite è chiaro che quello non ci fa beccare, no? Ehi fra, sto accendendo poco e niente, più che altro per l'ascolto, però così ti fa la testa a bomboglione, ma sentire sempre fi, però niente, non fa, dai. Ciao, QRT esecutivo, non riprendo, ciao. No, io quando voglio metto lo squelci. No, non mi dà fastidio, dai. Però dipende come arriva a voi. Qua ripeto, qui è basso, Santiago 4-5 con dei picchi positivi e basta. Tutto qui. Alleluia. Claudio, sì. Sì, quello l'ho notato, fra. Ha dei picchi notevoli. Notevoli, molto notevoli direi. Ciao. Ma è un piscialetto, devo andare. Cioè, ha dice il ban a noi. Ma non ti innande. Non mi farà mettere l'antenna sul tetto? Scappa. Cosa che l'antenna sul tetto? Ma lascia perdere. Ui. Hai conosciuto i pecori miei, non ti preoccupare. Deve conosco io le pecore mie. Sento, cosa c'hai? Roba accesa a ventole, cosa c'hai? La ventola c'ho. La ventola dell'apparato, o di che cosa? Alimentatore. Ah, dell'alimentatore. Invece apparato, ma stai usando un K? È un KBS. Non sei su KBS, boh. Hai fabbricato in Cina. E perché c'è l'attacco, sembra l'aggancio del Kenwood. Ah, l'ho collegato all'87, bene va. Laggiù ho fatto un attacco strano. Che l'MC60 ha attaccato l'87. E infatti l'aggancio sembrava del K, invece è il microfono che stai usando del K, là. Eia, già lo sai, si può mettere le batterie dentro, lo puoi pilotare con un altro apparecchio. No, non l'ho mai avuto. L'ho visto solo così, esteticamente, in video, dai, in qualche foto e basta. E a chi che apparecchio vai? Io. Il coso c'è, il qualche Galaxy, cosa vai? Un samurai, tipo il Galaxy, da samurai da macchina, mi, baracchino da macchina. Oh, che si cudi, no, samurai. No, io sono, è bravo, è un samurai bravo. Cappa. È un microfono da tavolo. Eia, Daniele, dove sei finito? Dove sei ancora al telefono? Sì, sicuramente. E che ora si è fatta che non ho orologio qua? Beh. Ma neanche tu ne hai? Allora vai demo e no, che... Ui, cazzo, mi c'è entrata qualche spina, mi c'è entrata nel piede. Allora, le 20:47. Dai, mi pare ora di mangiare, dai. Tu hai già mangiato? Cappa, già mangiato. Ma che marasso ci vai? Anche su bene. cazzo mi sta facendo morire, ragazzi. Beh, espine, l'hanno fatti così. Dai, ti saluto anche gli altri se dovessero rientrare. Tino, Claudio, dai, Daniele. Un abbraccio, ci sentiamo le prossime, dai. Saluto anche la pernacchia. Mi prendi a tu. Oh, non devo andare. Ho visto dell'odio, però. È veramente incredibile, va. Potete dire, dai. Ti ripiglio. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Ciao, Daniel. Ehi, Daniel. Dove ando, G? Ciao, la rosa, ciao. Ti è rimasto? Mi sa, sono noi due che siamo rimaste. Ho vinto. Va. Io mi sono sentato e c'avevo una bassa. Ehi, cappa. Uia. E poi Daniel, non ti ho più visto là, no. Stai facendo un altro lavoro? No, ma tu, ci siamo un attimino fermati. Ma problemi o con loro o no? No, altro studio, vai. Ah, storie di famiglia, no? Anto, sì, troppo. Non ce la facevamo più. No, perché Daniel è sbagliato, come lo facevi tu, cioè, troppo. Troppo, devo cambiare residenza, mettermi lì. Già lo so. No, perché devi fare 2-3 volte alla settimana e basta. E poi stai tranquillo. E si conferma, invece, vabbè. Cioè, ti dica, boh, ma santo, non voglio più neanche più sapere, non solo, non voglio neanche più sapere. Daniele, cioè, chi ti travaglia così, non è un lavoro che ti dà a mangiare alla fin fine. Cioè, non è un travaglio che ti dà da mangiare, cioè, ti dà di neanche cosa, boh. Il problema è questo, il problema è che lo devi fare tipo come lo fa Roberto e Franco. Fanno il suo turno una volta alla settimana, 2 volte alla settimana, saluta tutti e amici come prima. Essere troppo assidui non va bene in quei posti lì. Esatto, è vero. Adesso mi vediamo cosa trovare di altro. Aspetta un secondo, fare una cosa, aspetta. Eia, la prossima volta lo sai, la prossima volta. Non bisogna dare tanta confidenza che c'ha niente, ma cosa, se no ne scimare. E che... Ehi, Daniel. Ehi, a bobo lì. Cava. Allora, buttare il palo, questa rabbia, dove va? Va benissimo. Non bene, no, bene. Stavo dicendo, Daniel, che devi valutare quel sistema lì. Non è un travaglio, va. Oh, Daniel. Sì, a tu. E stavo rispondendo anche a WhatsApp. Sì, quello sì, Anto, perché poi a furia di stare, poi si rischia di bisticciare, capito? Esserci malumori e non si va più d'accordo. Capo, fatevi me 2 bassone che ti ho detto. Si fa il suo turno 1-2 volte alla settimana e basta, e poi chi si è visto, si è visto. Ma cosa fai, troppa gente strana anche qui dentro, compreso là. Troppa gente tipo comandava. Lo so, Anto, lo so. Sin qua non si fa pulizia, non si va da nessuna parte. Noi lo so, ma il problema è una persona lì che, come si dice, cioè è una persona che accetta queste cose, accetta purtroppo, già lo sappiamo come funziona, stiamo tirando avanti così. E infatti poi casini, a dopo, contenti loro, contenti tutti, a me già mi può fregare più da meno. Cappa, hai fatto bene. Allora, pensate un po' a voi, pensate, poi si troverà fuori meglio. Cioè, ti dà più, ti dà da mangiare di più, lo travaglio ti dà da mangiare di più. Si conferma. A tu, da questo passaggio, 1, 2, 3, 4 e 5, a questo passaggio, cambio la radio. No, un po' sì, ma la tante batte. No, niente. Ah, il capo, no, già... No, già va bene, vanno bene, dai. Aspetta. Ehi, Adania. Ciao, guarda, guarda, guarda. E poi, per il resto, a tu, tutto bene? No, tutto bene, dai. Qualche cavolata che non è andata verso giusto, però... Non è reso tutto bene. Va bene, va tu. Va bene, va, l'importante è che poi c'è una cavolata che si risolve, va, non c'è problema. Va bene, Anthony, io ti lascio che qua è tutto pronto. Poi ricarichiamo. E se coincide, boh, sentiamo dopo le prossimine. E tre cavallacche. Cappa, dai, Daniele. Mi ha fatto piacere, ci sentiamo. E anche a me, poi saluto anche per l'ascoltone. Andava, allora, vai tu. Se ci sei dopo, se sento qualcuno dentro, vai. Ormai già... Già riesco magari più o meno a essere più presente. Capo, ogni tanto ti manca di modulazione col microfono. Mi manca? Non mi accorgo, forse schiaccio male il PTT a tu. E buca che cosa è? Beh, ti arrivo a casa tua, quanto sono di segnale? 9:30, dai. Già va bene. Già va bene. In quel punto lì sono micidiale, sono. Via. Va bene, tanto dai, che sono qua oggi mi picchiano. Ci sentiamo alle prossime, dai, saluto i circolari a tutti, anche al tuo cuore. Ciao Daniele, ci sentiamo. Ciao. Chi è? Tanto. Ehi Lu, dai, sto facendo una cosa, ci sentiamo dopo. Popolino, popolino! Aspetta Lu che sto facendo roba. Sì, fai fatto, capito.